Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Google ha fatto il primo passo per andare incontro alle richieste europee riguardo al cosiddetto diritto all'oblio. È ora disponibile online, infatti, uno specifico modulo che consente ai cittadini del vecchio continente di chiedere l'eliminazione dei risultati di una ricerca relativa alle informazioni personali compiuta sul motore di ricerca più grande del mondo, che soltanto in Europa elabora il 90% delle domande degli utenti. La Commissione europea, che spinge in direzione del rafforzamento delle norme di protezione dei dati, ha accolto l'iniziativa con soddisfazione, ma ha anche specificato che vuole analizzare nei dettagli il sistema, in modo da comprendere bene... Ricordate, ne abbiamo parlato non molto tempo fa, la Corte di Giustizia europea ha deciso che Google, come particolare forse più importante motore di ricerca, per cui passa il 90% di tutte le ricerche su internet, deve adeguarsi e quindi dare possibilità a chi voglia vedere cancellate dei propri dati, delle proprie foto, delle proprie informazioni da Google, può farlo. Il problema, ve lo riassumo, poi entreremo nel concetto, è che sono subissati di richieste, siamo arrivati a 120.000 richieste di rimozione link. Google sembra ben deciso ad accettare la sentenza della Corte di Giustizia europea, ma se questo fenomeno si allargasse, materialmente, umanamente è impossibile andare incontro a tutte queste richieste. C'è un problema tecnico, c'è un problema proprio di impossibilità fisica di farlo. Converrebbe a questo punto a Google a chiudere bottega se ognuno che vede qualcosa che gli va storto in rete del suo passato dica: io ho diritto all'oblio, toglietelo. Come si risolve il problema? Vi dico subito il mio punto di vista, poi parleranno gli esperti e lo diranno in maniera più equilibrata. Secondo me non si arresta il dover ridefinire i termini del nostro spazio privato. Ci piace stare in rete, ci appaga stare in rete, ci è utile stare in rete, è importante che la rete continui a essere il connettore più forte, più potente dell'umanità. Bisogna di fronte a questo a qualcosa rinunciare. Indubbiamente, so che è triste, so che sono diritti inalienabili dell'umanità, quindi chi pensa di aver qualche scrupolo rispetto al proprio passato messo in rete, un selfie fatto che non vuole più esserci, una sentenza che debba, sì, non vedo già che scuotono la testa, non sono d'accordo. Penso così, io penso che il futuro vada in questa direzione. Poi naturalmente entriamo nello specifico. Andrea Rossetti, buongiorno. Buongiorno, sono Gianluca. Mi sono espresso nella mia drastica posizione perché è inutile che la nasconda, secondo me fa parte della civilizzazione digitale riscrivere e sovrascrivere probabilmente alcuni parametri su questo, ma vediamo se tu da professore, quindi esperto in nuove tecnologie, ma soprattutto in filosofia del diritto, dove insegna all'Università Roma Bicocca, sai riportare il termine innanzitutto nei limiti di quella che è la notizia. Cosa sta accadendo in questi mesi rispetto a quello che abbiamo detto l'ultima volta? Ma rispetto a quello che abbiamo detto l'ultima volta, direi che quello che c'è sempre di più è una maggiore consapevolezza da parte delle persone e delle autorità di quello che sta avvenendo. Per usare una metafora di questi studi, insomma, quello che stai definendo è il teatro della memoria. Siamo in un momento sicuramente di transizione e quindi siamo abituati a godere di diritti che probabilmente in futuro andranno non eliminati ovviamente, ma in qualche maniera ripensati. Sovrascritti, ho detto io, rispetto ai precedenti. Sì, sovrascritti in qualche modo, ripensati, indubbiamente stanno cambiando, insomma, sta cambiando il modo in cui l'umanità ricorda e soprattutto si stanno confondendo due tipi di memorie che nel passato erano mantenute distinte, cioè la memoria personale e la memoria sociale. Se io metto molti miei dati in rete, la mia memoria personale diventa sociale, nel senso che è anche influenzata da quelli che gli altri vedono o possono o hanno visto, insomma, possono vedere. Diciamo cambia il livello di memoria. Quello che noi consideriamo una memoria personale passa di rango, diventa in parte memoria sociale. Andrea, negli ultimi 6 anni, 5 anni, noi abbiamo tutta la nostra vita nei social media, è inutile negarlo, parte importante. Sì, non semplicemente il livello, ma anche proprio la maniera in cui ricordiamo, insomma, molti studi dimostrano che i nostri ricordi sono in qualche modo addomesticati al passato, cioè delle cose del passato noi ricordiamo quello che vogliamo e spesso anche come le vogliamo. Ecco, questa cosa sarà sempre meno possibile in futuro perché avremo il dato oggettivo, insomma, io posso andare a vedere effettivamente dove ero 5 anni fa e cosa stavo facendo e anche cosa pensavo, insomma, risalendo agli stati di Facebook di 5 anni fa che posso scaricare e navigare nel mio computer o in rete. Quindi effettivamente sta davvero cambiando la maniera in cui noi come specie, come esseri umani ricordiamo e dimentichiamo anche soprattutto questo, no? Perché appunto mentre l'oblio prima poteva essere considerato quasi una sorta di perdono sociale che veniva automaticamente dato dal tempo, ecco, questa forma automaticamente non c'è più, insomma, e quindi effettivamente probabilmente in futuro dovremmo garantire l'oblio in qualche maniera. Un esempio, insomma, per chiarire questo problema, un esempio riportato dalla realtà americana, che forse in questo senso è più interessante quello italiano: negli Stati Uniti molto spesso le persone cambiano posto per ricambiare la vita completamente, no? Per lasciarsi il passato completamente alle spalle. Ecco, fino a qualche anno fa questa cosa era assolutamente possibile, adesso no, perché comunque il passato può ritornare. Una recente indagine mostra che oltre il 92% degli americani, non sto parlando di italiani qui, ma di americani, pensa che ci dovrebbero essere delle leggi per fare in modo che tutto il loro passato a richiesta venga eliminato dalla rete. Questo mi sembra un dato interessante, insomma, da non sottovalutare. 800240024, come la pensate voi rispetto a questo problema? Vi rendete conto che la vostra memoria individuale comincia sempre di più a essere meno individuale, è sempre più contaminata dall'esperienza delle persone con cui la condividete? Provate a dare un'occhiata indietro a quanto avete lasciato di voi in rete, anche se non siete personaggi pubblici, anche se non fate professioni o attività che vi espongono. Comunque, dai social media in poi, ognuno di noi ha una parte importante della sua vita in rete. Guido Scorza, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito. Guido Scorza è un avvocato, docente di diritto alle nuove tecnologie. Lo chiamo perché, se non sbaglio, lei è stato fra le persone che Google ha chiamato come consulenti per capire come deve fare. La riassumo in maniera rozza: i signori di Mister Google sta girando l'Europa e sente persone con strumenti di decodifica del problema e dice: secondo voi come dobbiamo fare? Corretto, in Italia è stato ieri, l'altro ieri, e prima era stato a Madrid, e prosegue poi questo giro di ascolto. Erano preoccupati, avvocato? Diverse. Erano preoccupati quando hanno parlato con lei? Non a giudicare dai visi, ecco, non direi preoccupati, penso sinceramente alla ricerca di una soluzione di fronte ad un problema che è obiettivamente complesso e che dal loro punto di vista a questo punto è soltanto come diamo esecuzione a quella sentenza, posto che come tutte le sentenze non si può che rispettare. Ma fermiamoci un secondo, l'ultimo ospite, poi lo rifaremo un altro giro, perché oggi volevo portarvi persone informate e con strumenti di chiarimento rispetto a questo problema che sembra minimale, non interessare tutti, ma interessa chiunque di voi abbia uno smartphone e ogni giorno fa un like sul post di un suo amico. Antonello Soro, buongiorno. Buongiorno a voi. Presidente dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. Anche lei, come Italia, sarà stato coinvolto da questo tipo di problema. Qual è il suo punto di vista? Beh, io penso che abbia aperto questa sentenza una discussione giusta e molto complessa, perché che non consente a nessuno, non dovrebbe consentire semplificazioni, perché interviene in un contesto giuridico e anche di interessi così complesso che i temi posti, e già lei ne ha accennato qualcuno, riguardano molte facce della nostra vita, delle nostre abitudini e anche delle prospettive che abbiamo. Io ma penso... non c'è il problema, mi scusi, professor Zorro, che improvvisamente anche l'utente medio che usa il motore di ricerca per cercare banalissimi e importanti strumenti di vita quotidiana, dall'albergo dove andare alla vacanza, venga preso dalla frenesia della cancellazione. Improvvisamente sembri tutto importante e indispensabile da essere cancellato, anche il like all'amica con la quale non si vuol dare traccia di aver avuto a che fare. Beh, guardi, naturalmente il rischio, c'è anche un rischio di quantità. Secondo me dovremmo prima cercare di definire meglio i problemi, quelli più sostanziali. Sulla quantità credo che Google possa trovare facilmente, Google e gli altri motori di ricerca, facilmente dei filtri tali per cui la corsa all'oblio troverà un percorso un po' più articolato di questa corsa frenetica che ci sarebbe stata in questi primi mesi. Penso che il problema invece sia quello che è emerso in questo momento, e cioè il fatto che, dal cui dobbiamo partire, che la sentenza riconosce ai motori di ricerca un rango che di fatto già avevano, ma che l'ordinamento negava, di titolare di ricerca, cioè non di una di trattamento, non di un'infrastruttura meccanica che raccoglie dati e li mette in circolazione, ma un soggetto che decide cosa mettere, che notizie mettere, in che ordine comunicarle, con quale evidenza, cioè un soggetto che ha una parte attiva e in quanto tale è responsabile. Quasi una mente editoriale, di responsabilità editoriale. Ha una responsabilità che l'ordinamento gli riconosce. Diventerebbe il giornale più grande del mondo. Google accetta questo riconoscimento in conclusione della consultazione romana, mi dicono che abbia il suo leader detto: più responsabilità, più potere. È vero, il potere è già tantissimo, è grande di Google e dei motori di ricerca, cresce ancora. No, dicevo però, scusi dottor Sor, se si attribuisce a Google anche una responsabilità di tipo editoriale e lui l'accetta, Google diventa il più grande, importante e potente organo di informazione del mondo. Non è un organo di informazione, ma è, credo, il soggetto che già oggi incide più di qualunque altro soggetto sulla informazione nel mondo. Credo che non sia una scoperta, è una presa d'atto di questo. Il problema vero è: ma come fa Google a gestire questa sentenza, questo riconoscimento della sua responsabilità, e come fanno i cittadini, che è la vera domanda, a poter tutelare i propri diritti in un ambito così complesso? E noi intorno a questo credo che siano già emerse le criticità del caso, sulle quali si stanno confrontando sia gli esperti che le autorità competenti, però molti punti sono già emersi con molta chiarezza. A mio parere, credo che il rapporto fra la informazione, come lei la poneva, la storia dell'informazione e la tutela dei diritti, possa trovare una sua equilibrio, così come lo abbiamo trovato nella esperienza della carta stampata, delle televisioni. Anche lì il cittadino esercita questo diritto, gli editori ricevono con una discreta frequenza delle richieste di aggiornamento delle informazioni, di correzione di informazioni inesatte, in alcuni casi anche di rimozione. E il vaglio di queste domande oggi è affidato a dei soggetti privati come gli editori dei giornali. Esiste una seconda istanza, che sono le autorità di protezione dei dati, che esercitano un intervento di secondo livello. Ecco, dottor Soro, dobbiamo fermarci solo un istante, devo dare le informazioni del traffico, non volevo interromperla, però è l'appuntamento che incombe. Riprendo tra un istante proprio sulla domanda che ho fatto a lei, vorrei sentire anche gli altri ospiti. A questo punto Google diventa, già lo è, dice il dottor Soro, ma lo diventa ufficialmente in maniera incontrastata, il più grande e potente vettore di conoscenza che esista al mondo. Melog, cronache meridiane. .800240024, tocchiamo un problema che interesserà la vita di tutti noi, ha interessato la vita degli ultimi anni, interesserà la vita del futuro. Vi faccio un esempio limite: avete avuto una storia comunque di qualsiasi tipo con la giustizia, i giornali ne hanno scritto, poi siete stati assolti, poi comunque la cosa è finita, in qualche maniera non ha più ragione d'essere, gli archivi online di tutti i giornali rimangono in rete perennemente, la maggior parte delle persone che hanno questo problema non gli va dopo 20 anni a vedere ancora scritto che magari una volta hanno preso a calcio un gattino e hanno rubato la marmellata. Andrea Rossetti, è questa una delle fattispecie di cui dobbiamo tenere conto? Ma allora, dobbiamo sicuramente tenere conto del fatto che l'idea di privacy è un'idea che è correlata all'idea di trattamento di dati personali, ciò di cui si occupa il garante, ma è più vasta in qualche modo. Una delle sfide del futuro sarà proprio, secondo me, poter effettivamente togliere la foto del gattino, la foto del bacio, perché ciò che per me è privato, ciò che io considero privato, potrebbe non essere privato per altri. È chiaro che questo deve essere accompagnato. Ma io posso anche cambiare la mia percezione, ciò che per me potrà essere pubblico oggi. Certo, fa un anno non può essere più così. Certo, indubbiamente, ecco perché secondo me tutto questo mutamento non può essere ridotto semplicemente a un insieme di regole strettamente formalizzate, insomma. Il problema sarà far capire alle persone che mettere queste cose online ha delle conseguenze future. È banale dirlo, insomma, lo ripetiamo ormai da anni, però dovrebbe essere anche chiaro, appunto, che la privacy non è semplicemente trattamento dei dati digitali, è qualcosa che ha a che fare con il pudore, così come varia la nostra idea di pudore, quindi varia la nostra idea di privacy. privacy. Allora, avvocato, e, scusami, finisci pure. No, no, e quindi sarà ovviamente un'ulteriore sfida tecnica questa, no? Perché qui Google si dovrà confrontare con gli aspetti, le credenze morali di ciascuno dei suoi utenti. Allora, avvocato Guido Scozza, abbiamo detto è stato uno fra gli esperti chiamati a consulenza da Google per risolvere questo problema, quindi le è stato riconosciuto comunque un'eccellenza sul piano nazionale. In particolare, come si è svolto questo vostro incontro? Qual è stato il suo contributo? Quali erano le domande che le venivano poste? Ma in realtà la domanda era 10 minuti per tutti, per raccontare come Google avrebbe dovuto implementare o non implementare la sentenza in questione. La mia posizione è stata molto netta da questo punto di vista. Io sono preoccupatissimo dell'idea che a decidere quale link debba rimanere raggiungibile e quale link debba divenire irraggiungibile sia una corporation, non perché è Google, ma perché la logica di gestione di una società è quella della minimizzazione del rischio e massimizzazione del profitto, e quindi non posso fidarmi della circostanza. Quindi mi dà ragione quando io dico: ma Google poi diventa il grande giornalone del mondo? Questo è secondo me l'effetto schizofrenico che si è prodotto con questa sentenza della Corte di Giustizia, cioè la Corte di Giustizia parte dal presupposto voglio veder riconosciuto il diritto dell'Unione Europea anche alla corporation americana, e finisce però con l'attribuire proprio a quella corporation il ruolo di arbitro nella memoria della storia collettiva ed individuale degli uomini, perché da adesso in avanti se non intervengono tutte le autorità nazionali, meglio quelle europee, sarà di fatto Google, come l'altro ieri è stato detto più volte, a decidere quando qualcuno ha diritto a rivendicare l'oblio e quando quel diritto non c'è. Radicalizzo il paradosso, avvocato. Se io fossi il signor Google direi benissimo, ormai non ne esco più, c'è una sentenza, devo farlo. Benissimo, allora io sono il direttore dell'informazione del mondo, decido io, visto a questo punto che mi obbligate a spendere soldi, risorse, penso questo costerà fanta miliardi di dollari a Google lavorare in questa direzione, perché andarsi a ripescare e fare una selezione nei propri server, poi non dimentichiamo che anche Google ha un suo lecito e giusto profitto da tutto ciò che gira nei suoi motori di ricerca, quindi dovrà rivedere tutti i suoi parametri. Allora cambierà quello che è probabilmente una ragione aziendale, come dice giustamente lei, in una ragione di immenso potere. Avrà il potere, sarà la testata di tutte le testate del mondo a questo punto di vista, se decide cosa rimanga, cosa non debba rimanere in rete, o sbaglio? Per me il rischio è questo, e infatti io mi preoccupo, mi sono preoccupato in quella sede, continuo a preoccuparmi della circostanza che mentre chi chiederà la disindicizzazione se la vedrà negare da Google potrà sempre poi rivolgersi ad un'autorità garante per la privacy nazionale piuttosto che ad un giudice, chi viceversa autore di un contenuto e vorrebbe che quel contenuto restasse online, perché nella vita fa il giornalista, l'editore, certo, semplicemente, perché a chi si rivolgerà? Non potrà andare di fronte a nessun giudice. Non potrei dire a Google perché hai tolto quell'articolo mio che era così interessante e non si vede più in rete? Dirà perché sono fatti miei e non potrò dire nulla. Esatto, perché nessuno di noi può vantare un obbligo di indicizzazione di fronte a Google. Dice, ti faccio un servizio e metto su quello che voglio io, mi paghi? No, pagami e ti metto su online quello che vuoi. Potrebbe esserci anche questa ulteriore radicalizzazione. È un rischio che io all'orizzonte vedo, perché appunto nessuno di noi abbiamo il diritto all'oblio forse, ma nessuno di noi ha il diritto all'indicizzazione. Google lo fa perché è parte del suo business, chi sarà che discriminerà l'informazione dall'advertising a questo punto? Google. Quindi Google diventerà il padrone di tutto. Antonello Soro, presidente dell'autorità garante per la protezione dei dati personali, le abbiamo dato in mano una patata bollentissima, no, lasciale la conclusione. Ma guardi, l'avvocato Scorza dice una cosa giusta: Google non ha l'obbligo, ma oggi già non ha l'obbligo di indicizzare notizie che sono il prodotto dell'intelligenza di un singolo autore. Decide Google liberamente cosa indicizzare e cosa non indicizzare, così come decide quale ordine dare nella rappresentazione. Quindi è vero che c'è il rischio che non tanto quello che vengano respinte le richieste, quanto che ne vengano accolte troppe di indicizzazioni, ma è anche vero che l'autore che ha postato nel proprio sito, che sia un autore individuale o che sia l'autore che ha scritto in un giornale, nel proprio sito conserverà ancora quell'informazione, il prodotto della sua intelligenza. Quello che verrà meno sarà il ricordo del nome di quella persona che ritiene, a ragione, una ragione riconosciuta evidentemente, che la permanenza in un rapporto di indicizzazione poteva modificare la propria reputazione in modo ingiusto. Quindi il problema, molto complesso naturalmente, è non tanto un potere eccessivo di Google. Ogni tanto mi sorprendo della scoperta che Google, il potere ce l'ha già enorme. Il potere di Google deve essere esercitato in un contesto in cui uno solo dei soggetti in campo non basta. Lei ha fatto riferimento... Però devo far interrompere, dottor Zorro, la sigla dice che ci tagliano. Riprenderemo l'argomento e chiameremo anche lei. Grazie, a domani.